Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e anche oggi raccontiamo la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Ormai da molti mesi è la cronaca soprattutto di come sta evolvendo un po' come una bestia rara questa crisi, che piega sta prendendo. C'è chi l'ha paragonata al Leviatano, un mostro che ci rimanda altre immagini, e che forme sta prendendo, perché dopo la parte finanziaria, economica, adesso come temuto si va verso la parte occupazionale. Perché lo dico? Perché in una giornata in cui le borse stanno recuperando qualcosa rispetto al calo di ieri e di lunedì, uno 0,80% in generale, più 1,1 Parigi, più 0,9 Francoforte, più 0,1 Londra, più 0,9 anche Milano, con un recupero tutto sommato interessante dei titoli bancari: Banco Popolare più 3,90, Unicredito più 3,80, Popolare di Milano più 2,1, ancora abbiamo titoli come Mediolanum che recuperano l'1%. Dicevo, nonostante questo, arriva un nuovo allarme, anzi un allarme vero e proprio dal centro studi Confindustria, che stima e dà le cifre di quanti saranno, potrebbero essere, noi usiamo il condizionale, le persone in cassa integrazione che perderanno il lavoro nei due anni tra primo trimestre 2008 e alla fine primo trimestre 2010. La recessione causerà la perdita, secondo il Centro Studi di Confindustria, di circa 1 milione di posti di lavoro tra disoccupati veri e propri e cassa integrazione. E la stima della disoccupazione viene posta nel 2010 al 9,3%, il livello più alto dal 2000. Devo dire che ieri l'OCSE era stata anche più negativa, la stimava al 10%. E poi l'allarme più grosso: senza crescita più alta, gli standard normali del nostro stato sociale diventano insostenibili. Qui rientra anche la polemica, già, o l'allarme già lanciato dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha detto: riformiamo il welfare, perché sennò c'è una parte di popolazione che ha la cassa integrazione e una parte che non ha nulla, il lavoro interinale per esempio, ma non solo, anche piccole imprese artigiane. E ancora la Confindustria dice: i conti potrebbero non tornare, lo stato sociale diventerà insostenibile se non ci sarà una crescita più alta e delle riforme. Tra l'altro vi anticipo che, come stiamo facendo da qualche settimana, inviteremo anche un imprenditore che ci racconti la sua storia, piccolo imprenditore. Questa volta non è la storia dei problemi assurdi con le banche, e ne stiamo raccogliendo di mail su questo da farci un libro, ma è la storia dei cattivi funzionamenti della macchina burocratica, per cui non si riesce a far scattare, diciamo, i meccanismi automatici per la cassa integrazione, per dargli una mano con i suoi dipendenti. Quindi o ci sono le banche di mezzo oppure c'è la burocrazia. Fatto sta che gli aiuti alle piccole e medie imprese, alle piccole imprese, non stanno arrivando, arrivano col contagocce. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci occuperemo anche della riforma annunciata ieri in serata da Barack Obama sugli ammortizzatori sociali, e quindi, scusatemi, sui controlli al mercato finanziario americano, quindi nuovo potere alla SEC e anche alla Federal Reserve, nuove agenzie per evitare che le banche facciano quello che in qualche modo questa volta le banche americane stanno già facendo, cioè tornino a fare finanza altamente speculativa. 349-238-6666 per gli sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Si diceva dell'andamento del welfare, c'è anche il rapporto Covip oggi sui fondi pensione, di cui parleremo. Poco fa però Moody's, l'agenzia di rating, una delle più importanti, sono tre, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, ha messo sotto osservazione 21 banche italiane, tra queste anche quelle più grandi, Unicredito, Monte dei Paschi e Popolare di Milano, perché questa è in vista di un possibile declassamento del loro rating, del voto sulla loro forza finanziaria. Moody's però precisa che la maggior parte dei tagli di voto avrebbe solo un impatto limitato, un declassamento di un solo singolo punto. Andiamo avanti con l'economia invece internazionale. Volete sapere già del petrolio? Va bene, petrolio a $71.15, è tornato sopra i $70 al barile. Perché? Perché il petrolio si è rafforzato a 1,3970 e ne hanno beneficiato oggi, devo dire, anche i titoli energetici. Snam per esempio guadagna il 2,70 all'1,20 e nell'1,1%. Anche in India c'è la deflazione. Voi direte, chi se ne frega? No, mica tanto, perché è già arrivata negli Stati Uniti, l'abbiamo scoperto ieri, e che un paese con i tassi di crescita del 7-8% del PIL come l'India vada in deflazione. La deflazione vuol dire quando i prezzi non crescono ma calano, e che è tipico di un paese in cui l'economia è ferma, è stagnante o è in recessione. Beh, questo lascia molto perplessi. Eppure, per la prima volta dal 1977 c'è il segno meno nella dinamica dei prezzi in India, al 6 giugno meno 1,6%. Per fortuna arriva un buon dato dall'America, il superindice economico. A maggio più 1,2%, era dal 2006, da settembre 2006 che non cresceva per due mesi di fila. Le richieste di sussidi di disoccupazione sono cresciute un po' più delle attese in America, e nel frattempo arrivano dati anche sul commercio con l'estero ad aprile per quello che riguarda il nostro paese. Respiriamo un secondo, perché i dati sono pesanti. Vado. Meno 28,7% l'export italiano ad aprile. Anche qui, più che la percentuale, conta il raffronto. Mai così male dal 1986. Perché nel frattempo ci sono anche le dichiarazioni della politica, le fatte oggi il Presidente del Consiglio, che ha invitato i media ad essere più ottimisti. Per la precisione, ha detto Berlusconi che i media devono dare anche iniettare anche un po' di ottimismo nella copertura delle notizie economiche. È difficile essere ottimisti con questi dati: meno 28,7%, il peggior dato dal 1986, meno 3% l'export rispetto al mese di marzo, quindi anche mese su mese è pesante. Germania meno 30, Francia meno 28,7, le nostre esportazioni, dico. In Spagna meno 46, in Gran Bretagna meno 32, in America abbiamo esportato un 27% in meno. Per fortuna in Cina c'è un più 8%, non sarà grande cosa, ma è sempre un segno più. Giappone meno 15, dove va male l'export? Nella meccanica meno 26%, nelle auto meno 47, elettronica meno 24, chimica meno 28, abbigliamento meno 20, pelli e calzature meno 21. Mobili meno 23, alimentari meno 20, meno 11%. Sa che mi faccio un'auto gufo a questo punto. Vabbè, me la sono fatta da solo, perché insomma così almeno ripartiamo con un po' più di brio, visto che la partenza era stata quanto mai in negativo. Andiamo avanti. La Covip, presentata questa mattina la relazione annuale della Commissione di Vigilanza per la Vigilanza sui Fondi Pensione, 4.900.000 gli iscritti, i rendimenti dei fondi nel 2008 meno 14% per i fondi pensione aperti, meno 25% per i PIP, i piani di previdenza unit linked, e meno 6% per i fondi negoziali. Però Antonio Finocchiaro ha detto che, insomma, per quello che riguarda i rendimenti del fondo di pensione, il peggio sembra essere ormai alle spalle. Ascoltiamo al microfono il nostro Savino Gallo. I fondi hanno tenuto, hanno perso mediamente il 6%, naturalmente questa cifra nasconde una realtà un po' più articolata, però mediamente hanno perso il 6%, molto meno dei fondi di altri paesi e anche di altri settori italiani. Come si esce da questa crisi? Innanzitutto stiamo già uscendo, nel senso che nei primi 5 mesi di quest'anno, meglio ancora negli ultimi 2 mesi, c'è stato un rendimento positivo medio dei fondi di 2 punti o qualcosa in più di 2 punti. Secondo, si esce incrementando la base degli aderenti. Quindi bisogna impostare una grossa campagna informativa che informi sotto 2 aspetti il possibile aderente, i giovani, i meno giovani, gli autonomi, eccetera. Li informi su quello che sarà il valore della pensione pubblica nei prossimi 20-30 anni e nello stesso tempo informi sui vantaggi, le caratteristiche, le possibilità della pensione complementare. Partiamo da una base che ha fatto registrare una perdita, ma quando parliamo di perdite teoriche, perché soltanto nel momento, se qualcuno oggi uscisse dal fondo attualizzerebbe la perdita, avrebbe la perdita reale, ma se rimane nel fondo come la Covip ha consigliato è probabile che ci sia il recupero nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e quindi non c'è un rischio di perdita vero, reale. Va bene, si fa per dire, meno male che arriva la 14ª, verrà pagata infatti anche quest'anno l'una tantum previdenziale istituita dal governo Prodi nel 2007, 3.400.000 pensionati a basso reddito, cioè quelli che non vanno oltre gli 8.640 euro l'anno, riceveranno 380 euro in media a testa, e lo ha confermato ieri alla Camera il ministro Sacconi. Per una spesa complessiva per lo Stato di 1.300.000.000. 349-238-6666, partiamo con il primo tema. Lo stiamo dicendo da settimane, attenzione a settembre, l'ha detto anche la Presidente del Confindustria Marcegaglia, 100 giorni, ossia da qui a settembre, quando dopo le ferie riapriranno le imprese, e lì potrebbe esserci il temuto, io mi auguro assolutamente non realizzato, travaso di questa crisi, prima finanziaria, poi economica e poi occupazionale. Lo teme soprattutto il Centro Studi di Confindustria, che oggi scrive meno 4,9% il PIL nel 2009 e già si sta spostando sul livello individuato ieri dall'OCSE, che dice meno 5,3%, una ripresa faticosa nel 2010 con un deficit che quest'anno salirà al 4,9% e il debito salirà al 114,7%. Lo abbiamo spiegato anche ieri in collegamento con l'OCSE a Parigi, il problema delle percentuali è che se tu, diciamo, parti da, non so, un guadagno di 1.000, un fatturato di 1.000 euro e fai un meno 25%, scendi a 750 euro, se anche fai un più 10 vai a 750 più 75, 825, quindi hai voglia a recuperare con un più 10, che non si è mai visto in questo paese, i livelli a cui si era nel 2008, nel 2007. Per questo bisogna stare attenti, cioè è vero sia dire che c'è qualche segnale di ripresa, ma da lì a dire che con quei segnali si ritorna ai livelli del 2008, auguri. 1 milione di persone in 2 anni, scusatemi, secondo il Centro Studi Confindustria, il numero di disoccupati e di cassaintegrati, con uno stato sociale, non lo diciamo noi, lo dico a chi scrive, la butta subito in politica, lo dice il Centro Studi Confindustria, uno stato sociale insostenibile, sono urgenti le riforme, con se si ripartisse con le liberalizzazioni, con gli investimenti in infrastrutture, con la riforma della pubblica amministrazione e dell'istruzione, il PIL italiano potrebbe crescere del 30% nei prossimi 20 anni. In più, diciamo. Allora, sì, poi ci scrive anche un ascoltatore, la cartoleria, meno 29,5% nel settore della cartoleria, non so che devo fare. L'autogufo me lo sono già fatto, non so, fra un po' faccio condurre al gufo, fra un po'. Andiamo avanti sulle cose, ahimè, molto serie. Questo è l'allarme lanciato dal Centro Studi di Confindustria e il commento della Presidente a Marcegaglia, riforme subito o ci vorranno 5 anni per tornare ai livelli di produzione industriale del 2007. Ci sono alcuni segnali di miglioramento, anche la nostra previsione del 2010 più di un più 0,7 dimostra che questi piccoli segnali di miglioramento si possano trasformare in una crescita per quanto bassa nel 2010. Però ci tengo a sottolineare che questo non vuol dire che l'emergenza è finita, questo non vuol dire che siamo in una situazione nettamente migliore rispetto ai mesi precedenti e soprattutto se non cambiamo alcune cose, se non facciamo quelle riforme necessarie di cui tutti parliamo ma che al momento non si vedono, il rischio vero è che ci metteremo 5 anni almeno per tornare ai livelli di crescita vissuti prima della crisi, cioè nel 2007. Allora i dati sono chiarissimi, la sburocratizzazione, una riforma vera sull'istruzione, un aiuto, un investimento sulle infrastrutture, il tema della legalità in particolare per il mezzogiorno e le liberalizzazioni sono quelle grandi riforme che possono ridare un potenziale di crescita enorme al nostro sistema paese. Allora queste cose si possono fare, serve una volontà politica forte, serve una spinta e una denuncia anche da parte nostra e noi lo vogliamo fare, perché io sono convinta che se noi non facciamo queste grandi riforme adesso, il rischio che magari quando poi ricominceremo a avere qualche più davanti, magari con dei numeri molto bassi, l'emergenza si sentirà meno forte e quindi come sempre perverranno le logiche delle barriere, delle protezioni, delle lobby che eviteranno che invece queste riforme vengano portate avanti e vengano definite. Così Emma Marcegaglia. Oggi va detto che già nella relazione di fine maggio il governatore della Banca d'Italia, nelle considerazioni finali, Mario Draghi, aveva indicato in 1.600.000 i lavoratori che con il nostro welfare non hanno alcun sostegno, facendo anche un po' così. Si era in campagna elettorale, il presidente Berlusconi ha detto non risultano quelle cifre, poi però insomma non si è capito quali siano le altre cifre. Lo risentiamo? Si stima che 1,6 milioni di lavoratori dipendenti e parasubordinati non abbiano diritto ad alcun sostegno in caso di licenziamento. Tra i lavoratori a tempo pieno del settore privato, oltre 800.000, l'8% dei potenziali beneficiari, hanno diritto ad un'indennità inferiore a 500 euro al mese. Va colta oggi l'occasione per una riforma organica e rigorosa che razionalizzi l'insieme degli ammortizzatori sociali esistenti e ne renda più universali i trattamenti. Non occorre rivoluzionare il sistema attuale. Lo si può ridisegnare intorno ai due tradizionali strumenti della cassa integrazione e dell'indennità di disoccupazione ordinarie, opportunamente adeguati e calibrati. Essi andrebbero affiancati da una misura di sostegno al reddito per i casi non coperti, come avviene quasi ovunque in Europa ed è come è prospettato nel libro bianco del governo. Per i bassi salari potrebbe essere studiato un credito d'imposta, adottato con successo in molti paesi, potrebbe aiutare la regolarizzazione di posizioni sommerse. Poi c'è anche la vicenda Termini Imerese, oggi incontro tra Fiat e governo con Sergio Marchionne che ha detto insomma non produrremo più auto, produrremo altre cose ma non le auto e si sta cercando di ragionare sul il tema occupazionale lì. E allora insomma questo è lo scenario, le piccole e medie imprese, soprattutto le piccole, sono strette tra banche che è inutile raccontarsi storie. Hanno dato un giro di vite, non concedono i prestiti con la stessa facilità rispetto a prima e insomma e anche in maniera un po' così pelosa in alcuni casi. Dall'altro punto di vista, sempre le piccole imprese rischiano di essere così poco assistite, poco aiutate, poco agevolate da uno Stato, da un welfare system che da noi ha sempre avuto al centro le grandi imprese industriali. Paolo Piccinelli, buonasera. Buonasera. Lei che cosa fa nella vita? Io sono un imprenditore da 15 anni, anche se ho già 36 anni mi ritengo ancora un giovane. Beh, abbiamo certo. Iniziato io e mio fratello di un anno più giovane di me dopo la morte del papà. Come si chiama l'azienda? Se posso è chiedere. La Idrobene SRL. Cosa producete? Produciamo attrezzature idrauliche di presa, tutti gli accessori per la gru. E quanti dipendenti avete? Siamo in 25 in tutto, tra titolari, dipendenti e collaboratori. Esportate, vendete sul mercato interno? Esportiamo per circa la metà del nostro fatturato in oltre 40 paesi, pur essendo un'aziendina familiare, insomma ci diamo abbastanza da fare. Posso chiedere anche il fatturato? Poco più di 2 milioni di euro. Allora, lei mi dica che problemi ha avuto in questi mesi. Allora, la prendo un po' larga con la situazione internazionale, avete già dipinto voi il quadro. Noi vendendo un po' in tutto il mondo abbiamo un po' il polso della situazione, dal Cile al Regno Unito, dagli USA ai paesi arabi, e il nostro settore è in crisi un po' dappertutto. In Italia la crisi è arrivata più tardi, perché noi fino a dicembre 2008 abbiamo avuto il record di fatturato e dal 1 gennaio invece sembra che qualcuno abbia spento un interruttore. Meno 80% di fatturato, telefoni spenti, fax muto e clienti, concorrenti, fornitori con gli occhi fuori dalla testa. E questo diciamo da gennaio del 2009? Da gennaio abbiamo esaurito le commesse che avevamo pendenti col 2008 e poi esaurite quelle e abbiamo fatto un po' di magazzino e adesso stiamo raschiando il fondo del barile, insomma. Ha messo i dipendenti in ferie? Ferie ne avevano poche perché li ho sempre fatti ruotare, poi ci conosciamo, alcuni le ferie le paghiamo, altri rinunciano. Siamo passati alla cassa integrazione dai primi di aprile. Quanti? A rotazione 5-6 persone, a maggio invece più della metà, e oggi adesso sta suonando la sirena perché vanno a casa, ho qui 7 persone su 25, insomma. 7 su 25, cioè gli altri 18 sono in cassa integrazione? Sono in cassa integrazione e man mano mi servono, in base alle loro qualifiche li faccio venire. Noi ci parliamo, ci diamo del tu perché ci conosciamo, veniamo tutti da un piccolo paesino, è proprio l'azienda presepio. No, l'azienda tipica, il 97% delle aziende italiane, ecco, faccia conto, hanno meno di 25 dipendenti. Prego. Ecco, Isorella, che è il paese dove ha sede la nostra azienda, è un paese di 3.000 anime con 300 aziende. È la realtà della bassa bresciana, insomma. No, la realtà, diciamo, di tutta la dorsale adriatico e da Torino a Trieste. Sì, credo di sì. Salvo alcune eccezioni. Va bene, si fa per dire. Insomma, lei ha 18 dipendenti su 25 già in cassa integrazione. Sì. Se ho ben capito, a gennaio non aveva nessun dipendente in casa, cioè questa cosa si è verificata. A gennaio noi lavoravamo dalle 7 del mattino alle 7 di sera e lavoravamo anche il sabato mattina, quindi straordinarie a go-go, e poi si è spento tutto. E fin qui, diciamo, la problematica legata alla congiuntura, al settore, alla crisi, che posso capire. D'altronde, se la chiamano impresa, perché c'è. Da qui invece comincia la situazione che ritengo essere tutta italiana, la situazione da Repubblica delle Banane. Io ho sentito pochi minuti fa, lei ha parlato delle banche, qui ci hanno detto per mesi che le banche hanno ricevuto contributi per aiutare le imprese, e non capisco perché usino il termine aiutare. Io direi che hanno ricevuto contributi per poter prestare più soldi e quindi per poter aumentare il loro giro d'affari, perché i soldi poi li rivolgono indietro con tanto di interessi. E gli spread tutti sappiamo che sono aumentati, nonostante i tassi calino, il tasso percepito da noi rimane quasi uguale perché ci raddoppiano gli spread. Addirittura un direttore di banca a febbraio, un direttore con cui lavoriamo da 15 anni e non abbiamo mai saltato una scadenza, con 300.000 euro di garanzia abbiamo chiesto un mutuo di 90.000 euro e mi ha detto: lei deve sapere che io i soldi non li presto volentieri. Gli ho risposto di andare a vendere la frutta allora, se non fa volentieri il suo lavoro. Un'altra banca invece interpellata mi ha risposto schiettamente, direttamente: se vuole quei soldi qua mi deve dare il 4,5 di spread. Questa è la realtà. Il 4,5? Sì, al limite del tasso di usura, io non mi sono informato, ma penso che siamo lì. Un attimo Piccinelli, perché lei diciamo è un esempio, e lo devo dire, guardate, lo dico a chi scrive, attenzione. Trovare imprenditori così è la cosa più facile del mondo in questo momento, vi leggeremo tutte le email che abbiamo avuto. Comunque, lei è un esempio, diciamo, della difficoltà che ha la tipica azienda italiana. Ma è inutile stare a scrivere, ma sono troppo piccolo. Questa è la struttura del paese, da qui partiamo. Qui facciamo Radio 24 in Italia, non in Gran Bretagna, per fortuna forse anche, e non in Germania. Questa è la struttura produttiva del paese, è fatta nel 97% dei casi, dati alla mano, di imprese che hanno meno di 25 dipendenti, e di questo stiamo parlando. Dopo le informazioni in merito alla pubblicità, vorrei capire, lei è proprio un esempio da scuola, un paradigma, tutto bene fino a dicembre, a gennaio si spegne l'interruttore dell'economia, dell'export, inizia a mettere prima 4, poi 7, poi 18 dipendenti su 25 in cassa integrazione, e nel frattempo le banche prestano il denaro con difficoltà per essere buoni. C'è l'altro aspetto che riguarda invece i meccanismi automatici, i contributi automatici che dovrebbero scattare subito, perché insomma esistono dei meccanismi di carattere fiscale automatici. ...17:39, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco arriveremo anche alla borsa, più 1,1% a Milano, molto bene Ansaldo, STS più 5,1%, Unicredito più 4,6%, Banco Popolare più 3,90%, come la Milano, Mediaset più 3,3%. Vorrei però concludere un racconto che ho definito proprio da paradigma, da manuale, con un imprenditore tipicamente italiano, 25 dipendenti, Paolo Piccinelli, un settore, lasciamo stare che l'area sia Brescia, potrebbe essere Treviso, potrebbe essere Ancona, potrebbe essere Asti, veicoli, macchinari industriali. Lei ci ha raccontato con un'immagine molto bella, bella si fa per dire, insomma, che da gennaio è come se qualcuno avesse spento l'interruttore, crolla tutto, non ci sono più ordinativi, inizia la cassa integrazione. Prima ne mette 7, poi ne mette 10, poi arriva a 18 dipendenti in cassa integrazione su 25. Le banche, Piccinelli, non le danno i soldi. Come non li danno a me, non li danno a nessuno. No, no, certo, non è che ce l'hanno con lei, no. Magari fosse lei, faremmo il partito voto a Piccinelli. No, il problema è che vale per tutti. E adesso le faccio venire il racconto, solo una risposta a alcuni ascoltatori. Attenzione, perché qui siamo tutti sulla stessa barca, cioè inutile dire ma hanno guadagnato nel 2006, nel 2005. Qui stiamo parlando non degli utili del signor Piccinelli e di quanti soldi guadagna, stiamo parlando di 18 dipendenti su 25 in cassa integrazione. A me quelli interessano, non mi interessa se Piccinelli o Rossi guadagna un po' di meno quest'anno. Chiudo la parentesi. Allora, le banche i soldi non glieli danno, lei immagina di poter avere i contributi automatici. Sì, sì. Ecco, una parentesi, l'ho detto come premessa, se la chiamano impresa c'è un perché, quindi se guadagno bene, se non guadagno, problema mio, sta tutto nel rischio di impresa. Il problema è che poi mi trovo a dover combattere anche contro lo stesso Stato che dovrebbe tutelarmi. Noi facciamo ricerca e sviluppo perché tutti gli anni produciamo 2-3 prototipi, il nostro è un settore molto di nicchia e quindi la ricerca è la chiave del successo. E quindi in base alle leggi nazionali noi chiediamo dei crediti d'imposta per la ricerca e sviluppo che dovrebbero incentivare appunto me e la mia azienda a ricercare e a trovare nuove soluzioni, nuove tecnologie. Facciamo tutta la nostra bella domanda, la mandiamo all'approvazione, ci arrivano ieri mattina 2 righe dal centro operativo di Pescara, tra l'altro non so perché a Pescara elaborino le pratiche di Brescia, e ci dicono che ci sono stati rifiutati per mancanza di fondi, punto, arrivederci. Non ci dicono se ce li danno, quando ce li danno, ma a questo punto ho sentito anche il mio commercialista, ho sentito il consulente che ha preparato la pratica e anche loro sono nel marasma. Altro capitolo, perché questa poteva essere una coincidenza, siamo certificati ISO 14000, la certificazione ambientale, perché produciamo attrezzature per il riciclaggio e perché insomma abbiamo sempre creduto nella tutela dell'ambiente. Avremo diritto a 10.000 euro di rimborso, di contributo automatico, sono stati stanziati 3 anni fa ma non sono mai stati erogati. 15 giorni fa mio fratello, che si occupa dell'amministrazione, chiama il funzionario del Ministero dell'Ambiente e questo gli risponde, consentitemi, non so nulla, non mi richiami perché qui non sa un cazzo nessuno. Questo è il Ministero dell'Ambiente. Ditemi voi. Abbiamo fatto la domanda di cassa integrazione a marzo per i nostri impiegati e per i nostri operai. Potevamo scegliere di farli pagare dall'INPS dopo 3-4 mesi oppure di pagarli noi direttamente, visto che sono amici, vicini di casa, conoscenti. Gli abbiamo detto vabbè, li paghiamo noi per 2-3 mesi, ma non fateci aspettare più di tanto perché poi i soldi finiscono. La pratica è impantanata all'INPS, i soldi sono quasi finiti e noi non sappiamo cosa fare. Ma lei l'ha chiamata l'INPS? Io li ho sentiti con la mia commercialista il 15, che era lunedì, era giorno di paga. La commercialista mi ha mandato le paghe a mezzogiorno meno 5 perché dice: ho provato fino all'ultimo, ma muro di gomma. Mm. E siamo impantanati, abbiamo tante pratiche, tante richieste. E fin qui. Ecco. Allora, con i clienti? Con i clienti le lascio immaginare. C'è chi paga, c'è chi mi chiama e mi dice: sono in difficoltà, permettimi di rimanere fuori un attimino. C'è chi invece non mi paga, non mi fa neanche una telefonata, e se minaccio azioni legali mi risponde: fammi causa, che tanto ci vediamo fra 10 anni forse. Cioè, chi vuole truffare oggi può usare la giustizia come un martello, perché sa che per almeno 10 anni godrà di impunità. Abbiamo dei fallimenti pendenti dal 96 e dal 97, le aziende fallite hanno riaperto dopo 2 mesi come nuova Pinco Pallino, negli stessi edifici, con gli stessi dipendenti e gli stessi titolari, però noi stiamo ancora attendendo che un tribunale qualsiasi si pronunci. Abbiamo una causa con un fornitore che ci ha bidonato nel 2004, abbiamo 3 perizie, 4 udienze, testimonianze, compagnia bella, però siamo ancora in attesa di essere risarciti. Il magistrato dall'ultima udienza si è preso 18 mesi per stabilire la cifra del risarcimento, perché in via ufficiosa ci ha detto che abbiamo ragione, però se non ci danno i soldini noi abbiamo ragione. Allora, devo dire che i danni della giustizia civile in questo paese tutti si concentrano su quella penale, soprattutto la politica, insomma, forse se si partisse da quella civile sarebbe anche meglio. Purtroppo sono danni che c'erano anche pre-crisi. Il problema è che quando un sistema è già così ingolfato nelle sue inefficienze, arriva la crisi e o tu sblocchi queste inefficienze o se no le banche non prestano i soldi, l'INPS ritarda l'erogazione della cassa integrazione, i clienti possono permettersi, per via di una giustizia che funziona male, di non pagare, tanto rischiano poco e comunque lo rischiano fra qualche anno, e alla fine la domanda è: lei adesso manderà i dipendenti, insomma, tutti in ferie, immagino, Piccinelli, e a settembre? Allora, Piccinelli adesso vede cosa può fare, perché quelle 2 palanche che mi ha lasciato nostro padre le abbiamo reinvestite in azienda e stiamo cercando di salvare il salvabile, però Piccinelli e suo fratello devono anche tutelare le proprie famiglie, quindi... io temo che dovremo prendere delle decisioni molto spiacevoli. Fino all'ultimo cercheremo di arrabattarci in qualche modo, trovare nuove cose, cercare di... Però io ho la sensazione che stia accadendo dal 10° piano e continuiamo a dire: finora tutto bene, finora tutto bene, finora tutto bene. Ecco, poi alla fine troveremo il marciapiede. Che altro dire? Prospettive non ne abbiamo. In bocca al lupo. Non so, so che non serve molto, ma in bocca al lupo a lei e a tutti i Piccinelli d'Italia, visto che poi è facile stare da questa parte del microfono e raccontare le vostre storie, o meglio anche le vostre disavventure. Molto più facile, molto più difficile esserci dentro ogni giorno. Io devo dire che, per quello che leggiamo, la sua storia, non so se questo la può consolare, forse no, ma è la storia di migliaia di altri imprenditori e purtroppo di migliaia, decine di migliaia di altri dipendenti in questo momento nella struttura produttiva del paese. Un uomo in bocca al lupo a Paolo Piccinelli, a tutti i Paolo Piccinelli che ci sono in Italia. Qualcuno si deve muovere su questo, lo diciamo adesso, siamo a giugno, poi arriverà settembre, non voglio sentire da parte degli ascoltatori Cassandre, Gufi, questa è la situazione, già la temevamo. Riceviamo continue segnalazioni di imprenditori, o li abbiamo tutti noi come ascoltatori quelli messi male, o la situazione è veramente così. Non vi dico i messaggi che sono arrivati in questo momento, gente che si è vista chiudere il fido e la firma da un giorno all'altro, situazioni in cui non riesci neanche a fare ricorso alla cassa integrazione. Attenzione, perché sono fenomeni inerziali, poi è inutile intervenire quando le imprese hanno chiuso, a chi gli dai i soldi? Vabbè, informazioni per chi è in viaggio, poi la borsa 349-238-6666 per i vostri SMS. Sì, confermo che oggi il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che di fronte alla crisi in atto c'è bisogno di uno sforzo comune, per questo mi rivolgo anche ai direttori dei giornali perché diano un messaggio ottimista e positivo. Di nuovo in diretta, 17:50 minuti, ripeto, attenzione, non andiamo a cercare i casi così, anzi siamo stati fin troppo buoni in questi mesi a non portarne più spesso in trasmissione. È che comunque dovunque ti muova, nella parte produttiva del paese, ripeto, da Asti a Trieste, da Sondrio ad Ancona, il tormentone è lo stesso. Abbiamo usato le ferie, abbiamo svuotato i magazzini, abbiamo fatto un po' di cassa integrazione, un po' di contratti di solidarietà, adesso c'è l'estate, a settembre cosa facciamo se non riparte l'export? Questo è il punto di politica economica, a mio avviso. Perché poi, se no, il timore di Confindustria è correttamente questo, perdi pezzi interi del sistema produttivo. Dopo che, anche quando riparte l'economia, se non ce li hai più, non ce li hai più, le fanno in Cina o in Germania le componenti a quel punto, non più in Italia. Questo è, diciamo, il rischio vero, non tanto polemizzare a livello politico. Comunque la borsa più 1,1%, Ansaldo più 5, Unicredit più 4,60, Banco Popolare più 3,80, Popolare Milano più 3,60, recuperano le banche e non solo, anche gli energetici, Mediaset più 3,40, Impregilo più 2,6, Italcementi più 2,4, Snam più 2,2 come Mondadori, STMicroelectronics più 1,70, un punto e mezzo lo guadagna Fondiaria SAI, l'1,5 il rialzo anche di A2A, l'1,3 quello di Intesa San Paolo e poi Atlantia guadagna l'1,3. Chi perde terreno oggi? Le Pirelli meno 3,4, Monte dei Paschi meno 2,80, Autogrill meno 2,1, l'Automatica pure, Bulgari meno 1,7, Mediobanca meno 1,2 come Saipem, Buzzi Unicem perde l'1,1 come Fiat, Geox dopo l'acquisizione di Adora comunque meno 0,5%. E allora parliamo di borsa con Eleonora Micheli. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Mi sembra di poter dire che c'è stato un classico recupero, cioè questa è una borsa che non ha ormai molti spunti, anche perché ha fatto un più 50% dall'8-9 marzo e stanno tutti quanti a cauti adesso, perché capiscono forse che il recupero c'è già stato. Ansaldo? Sì, Ansaldo, guarda, si è svegliata sin da questa mattina, comunque ha accelerato ovviamente soprattutto nel finale insieme alla borsa, ha beneficiato di una notizia che è uscita 2 giorni fa e che diciamo era passata un po' inosservata a causa dell'andamento della borsa, dell'andamento debole, ovvero del fatto che la società stessa ha vinto una commessa e conseguentemente appunto i titoli ne hanno beneficiato. La notizia è stata data, ripeto, 2 giorni fa, però l'andamento dei mercati l'aveva messa in ombra. La commessa in Arabia Saudita ed è da 149 milioni di euro. Eh sì, ne avevamo parlato ed è appunto uno dei motivi, questo campus immenso, tutto di donne, però in Arabia Saudita, quindi non vi illudete. Allora andiamo avanti, Mediolanum per quello che riguarda i titoli più 0,90, resta negativa Buzzi Unicem, perde l'1,15%, però il calo più forte è su Pirelli. Devo dire che anche Pirelli Real Estate dopo il botto ha perso anche oggi un 14%, ma ha fatto veramente un botto. Pirelli. Sì, guarda, diciamo che la galassia di Marco Tronchetti Provera è risultata tutta debole, sono andate giù le Pirelli e peraltro è da più giorni che i titoli stanno perdendo terreno e stanno trascinando in basso anche i titoli della controllante Canfin, meno 3,4%, peraltro anche questi lunedì avevano corso all'impazzata, avevano fatto oltre il 50% sulla notizia dell'ingresso di Malacalza che ha pagato per il 3,5% un prezzo molto più elevato rispetto ai corsi di borsa. Per quanto riguarda Pirelli Real Estate, è vero, si sta sgonfiando, meno 14% oggi, anche ieri è andata male, d'altra parte le azioni erano salite molto e peraltro va segnalato che c'è una sorta di anomalia, sono scambiati infatti in borsa i diritti relativi all'aumento di capitale, ma i diritti esprimono un valore delle azioni che è molto più basso, secondo i diritti infatti le azioni in borsa dovrebbero valere 0,60 euro, ovvero 60 centesimi, mentre invece le azioni hanno chiuso a 1,25 euro. Mediaset bene grazie anche al giudizio positivo di Royal Bank of Scotland, ho capito bene? Esatto, oggi è stato... Royal Bank of Scotland ha ancora i giudizi? Esatto. No, cioè voglio dire, è fallita, se l'hai comprata allo Stato britannico al 70% e ancora parlano, vabbè. No, no, è interessante, va benissimo, probabilmente l'analista non c'entra nulla, ma è interessante vedere che un gruppo fallito dai giudizi su un gruppo, no, su qualunque altro gruppo non fallito, mi fa impazzire. Impregilo, bene anche Impregilo oggi, più 2,6%? Sì, oggi infatti è andata bene Impregilo, si è messa in evidenza grazie a una notizia che è stata annunciata oggi, la co-controllata di Impregilo in Brasile, infatti ha vinto una commessa trentennale per gestire le autostrade, i ricavi stimati complessivi saranno di 2,8 miliardi di euro. Altri titoli, Snam l'abbiamo detta, Fondiaria pure, cosa c'è, i migliori e i peggiori, migliore ING più 9%, Banca Profilo più 9,29%, Mono TV più 8,80%, Risanamento più 8,82%, i peggiori abbiamo detto Pirelli, Real Estate, Seat pagine gialle meno 6,35%. Grazie, Leonora Micheli. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver raccontato con la voce di un imprenditore quali sono le difficoltà di chi fa piccole imprese in questo paese, difficoltà, ripeto, dovute alla congiuntura, e lì nessun governo ha colpa, dovuto a un paese in cui la giustizia civile funziona male, e anche questa è una cosa che non è di oggi, però poi scopriamo che le banche si comportano come molti ci segnalano. Io non ce l'ho con le banche, lo dico ai bancari che scrivono, però prendiamo atto che tutte le segnalazioni vanno nella stessa direzione. Ripeto, o siamo ascoltati solo da così, dagli sfigati, oppure qui c'è un problema nell'erogazione del credito alle piccole imprese italiane, alle imprese artigiane, alle imprese che hanno poche decine di dipendenti. Addirittura ci arrivano messaggi di autotrasportatori a cui sono stati negati 1000 euro di prestito. Capisco tutto, però vabbè, la maggior parte scrivono, sono artigiani che la banca ha ridotto l'affidamento, addirittura praticamente portandolo a un terzo, e via così. Vi faremo anche ascoltare, visto che lo volete, alcuni passaggi dell'intervista. L'intervista, la testimonianza, più che un'intervista, è durata oltre 20 minuti, non ve la possiamo fare riascoltare tutta, però ci sono alcuni passaggi secondo me abbastanza emblematici. Andiamo avanti sul tema, perché oggi la notizia oggettivamente è rappresentata dall'allarme lanciato da Confindustria, non tanto sul PIL, ormai tutti, dalla Banca d'Italia all'OCSE, adesso anche la Confindustria, dicono che la recessione quest'anno toccherà il 5% del PIL, la Confindustria stima un meno 4,9%, ma siamo ancora a giugno e con una ripresa faticosa nel 2010, ma soprattutto l'allarme che in due anni, cioè tra i primi tre mesi del 2008 e i primi tre mesi del 2010, vi saranno 1 milione tra disoccupati e cassa integrati in più, con una disoccupazione che quest'anno arriverà al 9,3%, cioè ai livelli del 2000, quando iniziò invece un percorso virtuoso di continua riduzione della disoccupazione. E l'allarme lanciato dal Centro Studi di Confindustria, che dice: senza crescita più alta diventeranno e diventano insostenibili gli standard del welfare state e si va ad incrinare la coesione sociale, le mancate riforme hanno costi enormi. Ascolteremo dopo anche la Presidente Marcegaglia su questo. Vorrei concentrarmi adesso, come promesso, su Fiat. Perché? Perché questa mattina a Palazzo Chigi c'è stato un incontro tra governo, sindacati e i vertici aziendali proprio sulle prospettive industriali, ma anche e soprattutto occupazionali, degli stabilimenti italiani di Fiat. Gli elementi della Fiat sono a Mirafiori con 12.000 dipendenti, Cassino, Piedimonte, quindi Frosinone, 3.800 dipendenti, Pomigliano e poi Melfi e Termini Imerese. A Termini Imerese, quindi provincia di Palermo, sono 1.500 dipendenti, producono una nuova Lancia Y ed è la situazione un po' più critica dal punto di vista del futuro. Iniziamo con le dichiarazioni di Sergio Marchionne, che a Palazzo Chigi ha detto: la Fiat non ha denunciato esuberi di occupati a livello strutturale, sta facendo gli sforzi per limitare tutte le conseguenze sull'occupazione utilizzando tutti gli ammortizzatori sociali disponibili. Però, aggiunto Marchionne, ci stiamo avvicinando al limite delle 52 settimane nell'ultimo quadrimestre per almeno 10 stabilimenti. E quindi il limite delle 52 settimane è abbastanza alto sulla cassa integrazione. Per mantenere gli equilibri occupazionali, ha aggiunto Marchionne, occorre anche ridurre il conflitto sociale. Serve comunque razionalizzare la produzione della Fiat e a Termini Imerese verrà mantenuta una produzione, ma non di carattere automobilistico. Il Presidente del Consiglio Berlusconi, presente all'incontro, ha chiarito, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, sempre, che la Fiat non ha intenzione di delocalizzare gli stabilimenti. Sempre il Presidente del Consiglio Berlusconi ha anche detto che bisogna lavorare per infondere fiducia, saremo vicini a tutte le persone in difficoltà, non lasceremo nessuno da solo in questa crisi. Questo sempre secondo le fonti sindacali presenti all'incontro. E poi il ministro Scajola, che ha chiarito come il confronto si sposti sui tre tavoli che il governo intende aprire sulla Fiat con le regioni e con il sindacato. Tra l'altro, per quello che riguarda le aree di maggiore difficoltà e crisi, Pomigliano d'Arco e Termini Imerese, vi saranno contratti di programma con risorse in parte pubbliche e in parte private. Abbiamo definito tre tavoli di confronto che si riuniranno già nelle prossime settimane, che hanno come obiettivo quello di seguire l'andamento del mercato, l'andamento dell'occupazione, gli investimenti che faremo insieme alle regioni e ai sindacati, quello del sostegno alla ricerca e alla innovazione. Il terzo tavolo di confronto è quello relativo alla componentistica e quindi all'accesso al credito delle piccole imprese che sono interessate nella componentistica e quindi con un riferimento al settore che ha maggiore crisi al momento, che sono le macchine di movimento terra e le macchine collegate al settore dell'edilizia. In conclusione dell'incontro abbiamo ritenuto di evidenziare la possibilità che nelle aree di maggiore crisi, e il riferimento particolare è Pomigliano d'Arco e Termini Imerese, si possano definire contratti di programma con risorse fra parte pubblica e parte privata che possono aiutare il processo di riorganizzazione. E su questo è intervenuto anche il ministro al lavoro Maurizio Sacconi, al microfono del nostro Savino Gallo, ha definito il quadro descritto da Marchionne come realistico della situazione, ma con anche la volontà della Fiat di crescere. Si tratta adesso di entrare nel merito, di approfondire il dialogo con le organizzazioni sindacali, con le regioni e con l'azienda per cercare di individuare tutte le ulteriori potenzialità e ovviamente la protezione in ogni caso del reddito dei lavoratori. Ci saranno vari tavoli e il dialogo continua. Concludiamo l'approfondimento sull'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i vertici della Fiat. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del ministro Scajola e del ministro Sacconi. Un commento a seguito dell'incontro a Palazzo Chigi da parte del segretario della CGIL, Guglielmo Epifani. Da parte nostra abbiamo chiesto che ci sia grande attenzione al lavoro e agli stabilimenti in Italia. La Chrysler è una sfida molto importante, risanarla, però non può voler dire che si mette in secondo piano i problemi del lavoro in Italia. Da questo punto di vista ci sono delle cose che preoccupano: il futuro di Termini Imerese, il futuro di